80 centesimi all'euro, perché stanno scomparendo dal mercato, e soprattutto questo è il secondo step di un processo un po' più ampio di scomparsa dalla produzione appunto di questi prodotti. Ne torniamo a parlare con una persona che già ci ha accompagnato nella prima volta in cui abbiamo parlato di questo argomento, Franco Bianchi, presidente nazionale CNA Installazione e Impianti. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Allora, cosa succede dal 1 settembre di quest'anno? Ma dal 1 settembre di quest'anno i produttori non consegneranno più alla distribuzione lampadine a incandescenza da 75 watt, fermo restando che sul mercato rimarranno tutte quelle che sono presenti nei magazzini e nei negozi. Quindi è un ulteriore passo avanti che facciamo, come accennavo lei prima, al superamento di queste lampadine che ha ben definito sprecone. Noi sappiamo che l'energia che assorbono queste lampadine la rendono poi in luce, quindi come rendimento luminoso inferiore al 10%, quindi è veramente uno spreco assurdo di corrente. Comunque quando sono nate sono state le benvenute perché era l'unica tecnologia che c'era, oggi però è superata da tecnologie ben diverse, penso alle più note lampadine fluorescenti compatte, quelle meglio conosciute come lampadina a risparmio energetico, ma sta venendo avanti molto bene anche la tecnologia LED, che ha alcuni vantaggi e alcuni svantaggi rispetto a quello della lampadina a risparmio delle fluorescenti compatte. Adesso parliamo anche del LED, presidente, perché tra l'altro proprio in occasione dell'altra trasmissione che avevamo fatto molti ascoltatori ci avevano proprio sollecitato anche a parlare di questa tecnologia, chiamiamola così. Non avevamo avuto il tempo di farlo, però prima volevo tornare un po' alla questione del ritiro dalla produzione delle lampade tradizionali, quelle ad incandescenza appunto, dei 75 watt, della tipologia 75 watt, perché già dal mercato e dalla produzione sono già state ritirate quelle 100 watt, se non sbaglio, giusto? Certo, perché appunto sì, perché sì, parliamo del secondo step di un'operazione più importante. 100 watt e tutte quelle a vetro smerigliato. Allora, praticamente l'Italia sta ottemperando ad una direttiva dell'Unione Europea, giusto? Certo, quindi che sì. Cosa vuol dire tutto l'argomento di cui stiamo parlando questa mattina? Cosa stiamo facendo? Noi stiamo in Europa con la scelta che si è compiuta, si è deciso di andare a risparmiare una quantità enorme di corrente. Lei pensi che circa il 20%, qualche numero in meno, forse 18-19% della corrente dell'energia elettrica viene utilizzata per l'illuminazione. La stragrande maggioranza è fatta da queste lampadine, quindi il calcolo che fa l'Europa è che se riusciremo nel giro di questi anni a andare al superamento di questo tipo di lampadine, praticamente risparmieremo la corrente che un paese come il Belgio consuma in un anno. Quindi un risparmio incredibile. In termini di minor produzione di corrente e quindi anche in termini di minor consumo di combustibili fossili, che sono quelli che oggi servono maggiormente per produrre la corrente, e quindi in termini anche di minor anidride carbonica buttata nell'aria, nell'ambiente. Quindi, certo, ma parliamo di numeri enormi. Enormi, esatto. Quindi naturalmente per arrivare a questi... No, dicevo che impianti fotovoltaici bisognerebbe fare. Questa è una soluzione che vale un'enormità di impianti fotovoltaici, quindi si va nel senso da un lato del risparmio energetico e dall'altro, quando parliamo di fotovoltaici, di produzione pulita dell'energia. Per arrivare a questi risultati enormi, come quelli appunto che ci indicava il Presidente Bianchi, naturalmente abbiamo direttive europee, leggi internazionali, i paesi che si adeguano, poi naturalmente cambiamenti di abitudini anche all'interno delle famiglie necessariamente. Tutto questo intero processo di cambiamento delle lampadine che utilizziamo all'interno delle nostre abitazioni si concluderà nel febbraio del 2016. Allora, fuori dal mercato le incandescenza, le alternative sono, come ci diceva il Presidente Bianchi, o le lampadine incandescenti a tecnologia alogena o le fluorescenti o il LED. Quali hanno il miglior rapporto prezzo, durata e anche luminosità, Presidente? Dunque, oggi la lampadina, diciamo che ha i requisiti che mi chiedeva lei prima, è sicuramente la fluorescente compatta, perché è vero che la tecnologia LED sta venendo avanti, ma oggi non ha né una diffusione, quindi neanche un costo abbordabile, diciamo, quantomeno non appetibile. Infatti leggo sul Sole 24 Ore il prezzo può essere, per un'ipotesi di potenza di 20 watt, dagli 8 ai 16 euro, la durata però può essere addirittura di 10.000 ore di una lampadina a LED. No, la fluorescente compatta. Una fluorescente compatta. Esatto. perché la lampadina LED ha previsioni di durata molto maggiore. Certo, infatti, no, io mi ero riferita alle fluorescenti compatte di cui stava parlando. Sì, la fluorescente compatta oggi tra l'altro la troviamo anche in formati che può più facilmente sostituire la lampadina precedente, certo esteticamente è un po' diverso. Mm-hmm. La qualità della luce è differenziata, è sicuramente più simile alla luce del sole di quello che non sia la lampada incandescenza, perché oggi non siamo più agli antipodi come 20 anni fa, 30 anni fa, quando la luce del tubo fluorescente ci faceva sembrare tutti con l'itterizia perché diventavamo tutti gialli. Oggi la colorazione della luce raggiunge una resa cromatica molto vicina al 90%, che vuol dire che è una luce abbastanza simile a quella del giorno, a quella del sole. Per Presidente, qualcuno sostiene che le lampadine a basso consumo contengano sostanze più tossiche e che lo smaltimento di queste risulterebbe molto costoso dal punto di vista ambientale, è vero? Contengono indubbiamente del mercurio perché fanno parte del loro funzionamento. Per quanto tiene poi lo smaltimento, diciamo che anche su questo ci stiamo attrezzando. Esiste una legge che riguarda appunto il recupero di queste lampade vengono stoccate, recuperate e poi vengono recuperati i vari materiali che le compongono, non vengono più buttate, non va bene buttarle comunque nel normale rifiuti, devono essere smaltite in questo modo. Certo, come ho detto prima, un po' di mercurio dentro c'è. Allora, un'ultima domanda le faccio, naturalmente alcuni ascoltatori ci stanno già scrivendo un po' preoccupati perché sostengono naturalmente che con le tradizionali lampadine e il loro progressivo ritiro dal mercato dovranno anche progressivamente cambiare, forse questo gliel'avevo chiesto anche l'altra volta, tutti i lampadari di casa, tutte le lampade, ricordiamo appunto che le nuove possono tranquillamente essere avvitate anche ai nostri vecchi impianti di illuminazione. Indubbiamente, certo. Perché se no altrimenti qua sarebbe stata una rivoluzione pazzesca e forse non ci potranno essere delle condizioni un po' particolari se vuole per lampadare di grande peso, di grande valore, dove l'aspetto estetico è indubbiamente un pochettino diverso. Però l'utilizzo può continuare, diciamo, dovremmo fare un pochettino l'occhio a una lampada che noi ormai conosciamo da 130 anni, che è la lampada incandescenza. E quindi insomma forse un po' per affezione ci dispiace abbandonarla, ma insomma le condizioni ambientali mondiali ci chiedono anche questo cambiamento. Presidente Bianchi, io la ringrazio per essere stata con noi, le auguro una buona giornata. Altrettanto. Io vi ricordo anche i nostri ascoltatori, per coloro che ne volessero sapere di più, la pagina di Affari Privati del Sole 24 Ore di questa mattina e poi Radio 24, anche una rubrica in cui si occupa spesso di questi argomenti, e Mr. Kilowatt, tutti lunedì, dal lunedì al venerdì, tutti i giorni alle 21.05 alle 6.10 del mattino. Alessandro. Eccoci qua. Tango Bond d'Argentina. Il Tango Bond, c'è stato il presidente dell'American Task Force Argentina in Italia, nei giorni scorsi l'abbiamo intervistato, sentiamo a che punto è questa questione senza fine. Sono le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, le notizie in primo piano. Nichi Vendola stravince in Puglia le primarie del centro-sinistra per le elezioni regionali, oltre il 70% il consenso contro il candidato di D'Alema, Francesco Boccia. L'avversario di Vendola per il PDL sarà Rocco Palese. Dare ai giovani 500 euro al mese per aiutarli a uscire di casa è la nuova proposta del ministro Brunetta sul tema dei bamboccioni. Prendiamo le risorse dalle pensioni di anzianità, ha detto, ma arriva lo stop di Palazzo Chigi, è un'idea del tutto personale del ministro, si legge in una nota. Ad Haiti le autorità temono 350.000 corpi, 150.000 i corpi recuperati, mentre 200.000 sarebbero le vittime sotto le macerie. Ieri intanto il capo della nostra protezione civile Bertolaso ha scatenato una polemica definendo gli aiuti patetici e il ministro degli esteri Frattini dice che il governo non si riconosce nelle sue parole. Bertolaso non è il coordinatore del mondo. Infine per il calcio, l'Inter in 10 uomini vince 2-0 il derby col Milan e va a più 9 sui rossoneri. Mourinho attacca anche l'arbitro, non ci faranno vincere presto lo scudetto. Nel pomeriggio vittoria anche per Napoli, Bologna, Genoa, Palermo e Sampdoria. E allora alle 8:33 minuti parliamo nel nostro sondaggio, come detto, del ministro Brunetta, ma anche delle doppie, triple poltrone dei parlamentari. Il ministro Brunetta che dice: se vinco a sindaco di Venezia non mi dimetto da ministro. Il sondaggio. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Allora, alle 8:33 minuti vi chiediamo di votare sul sito radio24.it o il sole24.com. Il radio24.it, tra l'altro, lo ridico, da oggi molto rinnovato, molto bello da vedere, molto più fruibile. Bisogna dire che sono già oltre 2000 i voti, l'85% dice dovrebbe dimettersi Brunetta. Non è che parliamo strettamente di Brunetta, ma insomma del doppio incarico, alcuni casi tripli incarichi, delle poltrone dei parlamentari, insomma un vezzo, un vizio o, oppure qualcosa che si può fare. Che ne pensate? Lasciamo le ironie sul Brunetta contro i fannulloni e lui che viene definito dalla Repubblica il fantuttone. Però certo il sindaco, il candidato sindaco del centro-sinistra, scelto ieri alle primarie, ha detto qua sindaci da weekend non ne abbiamo bisogno, rivolgendosi ovviamente a Brunetta. Tra l'altro, così per iniziare con un po' di ironia, Brunetta l'abbiamo ripescato in un paio di trasmissioni, cosa dice? Sentite per esempio giornata impegnata, sentiamo. Il parlamentare lavora normalmente dal lunedì al venerdì, lavora in commissione, lavora in aula. Guardi, le dico solo la mia giornata, io alle ore 1 vado in commissione alla Camera perché devo discutere una risoluzione sulla trasparenza, dopodiché torno al Ministero, vado nel pomeriggio nuovamente alla Camera perché c'è il voto di fiducia, poi alle ore 18:30 vado a Palazzo Chigi perché c'è l'incontro con il sindacato. Il parlamentare è eletto dal popolo e deve rappresentare il popolo. Se fa l'assenteista e non vota, il suo partito va sotto, e cioè non conta. E la sanzione c'è direttamente nella sua presenza o nella sua assenza. Ecco, nella sua presenza o nella sua assenza c'è la sanzione. Sentiamo ancora, avete sentito la giornata da parlamentare, molto molto scandita dai tempi, molto impegnata. Andò a Matrix, quando Matrix era condotto da Mentana. Mentana gli fece vedere una piccola contestazione, in realtà erano due ragazzi a Napoli che lo contestavano, si sente all'inizio, no? Abbassatevi gli stipendi. Sentiamo Brunetta, poi come entrando in studio, come commenta. E di vincerlo permettete non ci tagliate l'università pubblica, grazie. Tagliamoci lo stipendio. Tagliamoci lo stipendio. I vostri soldi sono la prima cosa da tagliare. Tagliamoci lo stipendio. Allora, si commenta da solo, posso solo dirle? No, allora, stamattina mi sono documentato alle 7. Come si parlerà di contestazione? Abbiamo visto che erano 5 persone. Alle 7, Ministero alle 8, Consiglio dei Ministri alle 9, a Napoli a l'una. A Napoli, con una piccola digressione da Luigi Merola, il prete anticamorra, per dare una mano a quei ragazzi, lavoro meraviglioso, statuina San Gregorio Armeno, Bassolino, poi Roma, Ministero, Matrix. Insomma, Sergio Rizzo, buongiorno. Inizierei da Sergio Rizzo del Corriere della Sera. Allora, giornate molto scandite, ma Brunetta dice ce la farò anche a fare il ministro, il sindaco di una città importante come Venezia. Il parlamentare, intanto, almeno da parlamentare, deve dimettersi per legge se sindaco di Venezia? No. O meglio, sì, ma no. Perché c'è una legge che stabilisce una cosa molto curiosa, almeno per come è stata interpretata, cioè che se c'è una persona che fa il sindaco di una città sopra con una popolazione superiore a 20.000 abitanti non può essere eletto, ma se un parlamentare si candida a fare il sindaco di una città sopra i 20.000 abitanti può essere eletto. Questa è stata l'interpretazione da comma 22 che è stata data una legge sulle incompatibilità. Il risultato è che oggi in Parlamento abbiamo, se non erro, 7 sindaci di città con oltre 20.000 abitanti e ben 9 presidenti di giunta provinciale che per lo stesso meccanismo, insomma, dovrebbe essere evitato, ma non lo è. Ma che cos'è? Una corsa al poltronificio? I politici, tra l'altro qua ci sono anche due politici che tra poco saluto e ti stanno ascoltando. Dunque, io intanto faccio notare che l'Italia non è l'unico paese dove ci sono queste anomalie. In Francia c'è una situazione molto simile, nel senso che il 90% circa dei parlamentari hanno anche cariche istituzionali negli enti locali. Addirittura ci sono casi come quelli di Christian Estrosi, che è ministro dell'industria, che è sindaco di Nizza. Quindi, però c'è da dire che in Francia i ministri non possono essere parlamentari, quindi questo già in parte un po' risolve il problema. E in più c'è adesso tutto un dibattito circa il fatto che sia o meno una cosa sensata mantenere tutti questi incarichi in capo alle stesse persone, perché il problema principale che ha questa questione non è tanto il tempo, che quello è anche importante per carità, ma è la mancanza di ricambio della classe dirigente. Quando si accumulano tanti incarichi sulle stesse persone, inevitabilmente, no, si ha un impoverimento del meccanismo di ricambio. Penso che questo sia il problema principale. Sì, no? Anche se poi i politici dicono, soprattutto eletti sindaci, ci candidiamo e veniamo eletti. Intanto io voglio salutare, ci stanno ascoltando due politici, entrambi del PDL, Giancarlo Nenner, onorevole, buongiorno. Salve, buongiorno. Uno che all'interno della sua coalizione è sempre stato lì a bacchettare, soprattutto gli assenti, a dire si dimettano o di qua o di là, una poltrona basta e avanza. Voglio salutare anche l'onorevole Mario Mantovani, buongiorno, senatore, per la verità, senatore, buongiorno. Buongiorno a lei e radioascoltatori. E devo dire, senatore, sottosegretario alle infrastrutture e sindaco di Arconata in provincia di Milano, quindi insomma tre cariche che immagino lei, sindaco, ci dirà, o senatore o sottosegretario, tiene e sotto controllo in maniera straordinaria, immagino, no? Ma tanto bastano i telefoni. Ah, le assicuro che lo faccio con dovizia di anche di particolari, nel senso che vado a votare in Senato, faccio il sottosegretario e poi devo dirle che fare il sindaco della mia città non solo è un, credo, un beneficio per i miei cittadini che mi hanno eletto già per tre volte con quasi il 70% dei voti, e quindi dico viva la democrazia. Ha sentito però, Rizzo, la classe dirigente poi non si rinnova, cioè voglio dire, come facciamo? Ma guardi, adesso se parliamo di 7 presidenti di provincia e di 5 sindaci, cioè voglio dire, sono numeri veramente risibili, insomma. In Francia, dove invece giustamente facevo osservare che questa abitudine è più diffusa, questa possibilità forse potrebbe avere un senso, non in Italia, dove su 1000 parlamentari stiamo parlando quasi dell'1%. Insomma. Dice, sono numeri risicati. Insomma, sì. onorevole Lenner è lì sempre a bacchettare, a dire. Allora, Brunetta, secondo lei, dovrebbe, in caso di elezione a sindaco, immagino, lasciare la poltrona al Ministero, lasciare la poltrona al Parlamento, entrambe? Ma io penso che qui siamo davanti a un'abitudine sbagliata, quantomeno. Intanto bisogna dire questo, per quanto riguarda noi alla Camera, il PDL, anche avendo una maggioranza schiacciante, spesso noi andiamo sotto perché c'è un numero di assenti a volte al di là del bene e del male, cioè una vergogna. Due, e poi qui sembra che si attui allora, l'utopia di Carlo Marx, insomma, l'homo novus che alle 8 dipinge un quadro, alle 9 suona il pianoforte, alle 10 va a pesca e così via. Io credo che avere più incarichi sia una cosa sbagliata, a meno che, per esempio, il senatore è sindaco, sì, ma sì, di un piccolo centro, insomma, quindi credo che possa essere anche conciliabile, ma essere ministro, parlamentare e sindaco di Venezia, cioè sindaco di una città che ha problemi enormi, a me pare che un sia troppo, sbagliato. Dice. Tra l'altro, vorrei tornare a Sergio Rizzo. Allora, Massimo Cacciari, lì sindaco uscente, ha detto la vera vergogna, dice Brunetta fa benissimo a ipotizzare il doppio ruolo, perché tutto ciò che non è contro la legge è lecito. La cosa vergognosa è appunto la legge. Per esempio, si può fare l'assessore, non so, al bilancio di Roma, che voglio dire, immagino sia un ruolo fondamentale, un ruolo importante di responsabilità, e il parlamentare e il ministro, no? Allora, dunque, sono due cose diverse. Il parlamentare può fare l'assessore perché non c'è nessun impedimento. Il ministro non lo poteva fare finché la legge sul conflitto di interessi, la famosa legge Frattini, aveva un comma che stabiliva appunto l'impossibile, il divieto assoluto per i ministri di fare gli amministratori di enti locali. Dopo 6 mesi dell'approvazione della legge Frattini, questo comma è stato abolito. Questo, io non so se il motivo era perché in quel momento Matteoli si candidava a fare sindaco di Orbetello ed era ancora ministro, però Però comunque la conseguenza è stata questa, cioè che adesso ci sono diversi uomini di governo, insomma diversi, qualche uomo di governo che ha anche incarichi importanti, per esempio il vice ministro nelle comunicazioni romane, mi pare che sia assessore a Monza, al comune di Monza. Sì. Beh, ti hai detto il ministro dei trasporti Matteoli, anche sindaco di Orbetello, esatto, e siede in Parlamento. Beh, il nostro sottosegretario Mantovani, che è qui, credo anche Molgora, sottosegretario all'economia, che sia anche presidente forse di una provincia e anche onorevole. Comunque, sentiamo il primo ascoltatore, Giovanni da Mantova, che ne pensa. Ci ha chiamato all'800240024. Giovanni, che dice lei? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, allora io volevo dire semplicemente questo. Dunque, innanzitutto io sono contrario alla molteplicità degli incarichi, ma nello specifico, conoscendo bene Venezia, io ho studiato a Venezia, mi sono lavorato a Venezia, quella città è una città di tale delicatezza, di tale particolare bellezza e necessita di tali attenzioni. Ed è un unicum al mondo, per cui il sindaco di Venezia io lo attaccherei con una catena a uno dei pilastri del Palazzo Ducale. Vabbè, adesso esagerare, non è che la politica si fa sempre stando lì sul territorio. Capisco il senso del suo intervento, dice non ci si può dividere ruoli così di responsabilità, no? Quindi lei non vedrebbe il sindaco che fa anche altro, Giovanni, questo è il... Presenza totale. Uno che fa il sindaco di Venezia deve dare l'anima a Venezia. Deve fare il sindaco di Venezia, va bene, grazie. Ma Brunetta dice lo farò, insomma, poi pare che verranno nominati nel caso, sempre di Vittoria, due sottosegretari per sostituirlo a Roma quando non ci sarà, due vice sindaci operativi a Venezia. Staremo a vedere sempre se diventerà sindaco. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. All'85% di voi che vota su radio24.it o sole24ore.com dice dovrebbe dimettersi Brunetta, se eletto sindaco a Venezia, dal ministero. La giornata l'abbiamo sentita scandita: 8 Camera, 9 Parlamento, 10 Ministero. Bisogna aggiornarla. 8:48:52 adesso, diretta con Maurizio Belpietro su Canale 5. Sentiamo. Belpietro, Canale 5. Sindaco di centrodestra è mai riuscito a sfondare? Adesso c'è. Per amore per la mia città. Ecco, parla di Venezia. Perché da bambino giocavo sulle fondamenta di Venezia, perché ho qualche idea per togliere Venezia dal declino in cui versa da due secoli, ma declino che si è accentuato negli ultimi 15-20 anni. Ecco, per amore. Contro lo spopolamento della città. Per amore, lo fa per amore. Ha capito? Lener, ha sentito, onorevole Lener, lo fa per... Questa è impresa diretta, dobbiamo aggiornare quindi l'agenda. 8:45, diretta. Però ecco, c'è un fatto straordinario secondo me. Allora, Brunetta, a parte che è molto simpatico, ma poi in Italia credo sia l'unico che razzola bene e predica male. Quindi io sono sicuro che lui sarà un sindaco ottimo a Venezia, e sono sicuro anche che siccome è uno che razzola bene, poi smetterà magari però di andare a predicare male, e quindi farà solo il sindaco a Venezia. Credo che il suo sia più stato una sorta di spot, insomma, perché è impossibile che lui possa fare il sindaco a Venezia, il parlamentare, il ministro. E che vuol dire? Cioè, come uno spot? Cioè, che vuol dire che secondo lei poi si dimetterà? Sì, secondo me sì, assolutamente è impossibile che possa. E a quel punto, se non lo facesse, io sarei favorevole a una legge che obbligasse a scegliere, vediamo prima di tornare dal nostro sottosegretario Marco dalla provincia di Brescia. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo fare molto in sintesi due osservazioni. Cioè, la prima è che da una persona molto intelligente, molto brillante come Brunetta, ci si aspetta una scelta più comprensibile da parte degli elettori, perché questa rischia di risultare una scelta incomprensibile e quindi alla fine per lui dannosa dal punto di vista elettorale, ma soprattutto ci si aspetta che capisca che qualcuno all'interno del Popolo della Libertà sta tentando di bruciarlo, perché è una scelta talmente incomprensibile, talmente fuori di testa. Come assolutamente incomprensibile? Cioè fare il sindaco di Venezia, che ci ha provato. Fare il sindaco di Venezia e anche il ministro della Repubblica è una cosa talmente incomprensibile che rivela che qualcuno di quelli che ha disposto la sua candidatura lo vuole bruciare. Ah, dai, vedi una dietrologia. Vediamo, sottosegretario Mantovani, qualcuno ci chiede ma le sue presenze in Parlamento, tanto è tutto certificato, quindi sia preciso e puntiglioso al Senato, quanto è nella media degli assenteisti o dei presenzialisti? Ma guardi, peraltro Venezia non è insolito, cioè abbiamo avuto altri casi a Venezia, abbiamo avuto il sindaco Costa, che era parlamentare europeo, sì, è vero. Ed era anche presidente di una commissione in sede europea, che una commissione europea vale un ministero, insomma. Abbiamo avuto Cacciari, che è stato anche parlamentare europeo. Io non credo che questo stabilisca un percorso sbagliato. E poi io sono convinto che Brunetta ha veramente delle caratteristiche straordinarie, insomma, io credo che anche questo vada colto. Sì, riguarda saranno poi sì. Gli elettori, io credo, perché io credo che la bellezza della democrazia sta proprio in questo. No, ma quello sì, poi voteranno gli elettori che lo stabiliranno, non attribuiamo ai vertici il fatto di bruciarlo. Però senatore, lei chiedo come presenze, come sta Senato? Ah, direi abbastanza bene, insomma, quando si deve votare almeno i provvedimenti importanti, perché non vado a votare per esempio le piccole cose del giovedì pomeriggio, insomma, ecco, dove magari ci sono delle interrogazioni, eccetera, queste cose forse le evito, però il processo breve, il federalismo, le cose fondamentali siamo sempre presenti. Quando conta lei c'è? Guardi, non ho ancora ricevuto, perché è un anno e pochi mesi che siamo lì, non ho ancora ricevuto il mio statino di presenza, aspetto che arrivi come arrivava in Europa. Io ho fatto 9 anni di parlamentare europeo, nel contempo ho fatto il sindaco, i miei cittadini mi rivotano a piene mani, le città possono avere un beneficio. Io credo che la presenza di Brunetta a Venezia rappresenti un grande beneficio per la città. Allora, di questo ne sono assolutamente io convinto. Vorrei andare per un attimo da Sergio Rizzo. Allora, ho davanti a me un'intervista che ho ripescato di Antonello Caporale su Repubblica a Nicolò Ghedini. In questo caso Nicolò Ghedini parlava da coordinatore del Veneto, 9 giugno 2008, poco dopo le elezioni. Dice Ghedini: parlo perché è giusto, gli impegni presi si rispettano. Io avvertii e chiesi prima che il governo si formasse: ma tu, nel caso ci andassi, ti dimetteresti da parlamentare? Tu, Brunetta? E Caporale dice: io, Brunetta, cosa risposi? Certamente. E tu, Sacconi? E Sacconi? Sacconi non mosse obiezioni. E anche la Casellati. Parlo di questi tre colleghi del Veneto perché sono coordinatore del Veneto. Ma che questione è? Stupefacente, dice Ghedini, incredibile, incresciosa, impossibile a credere. C'è un minimo principio di equità, è la promessa data, è il senso mancante di uno spirito comune. Impegni annunciati, rimango sconcertato. E Berlusconi che dice? Lui è troppo buono. Forse è in mano a Ghedini. Ghedini infatti dice: per me bastasse una leggina, zac, un articoletto, una modifichina al regolamento e tutto risolto. Sergio Rizzo, qua è Ghedini che parla, non è mica. Dovrebbe forse pensare anche alla sua di posizione, perché qui si parla tanto dei ministri che fanno i sindaci oppure i parlamentari che fanno i consiglieri comunali, ma il problema è che ci sono gli avvocati che fanno i parlamentari, fanno le leggi e poi le applicano. Questa è un'altra enorme, gigantesca anomalia che forse anche questa andrebbe un giorno affrontata. Però io volevo dire una cosa sul sottosegretario Mantovani, cioè su quello che ha detto lui. Sì. Secondo me non si può risolvere in democrazia tutto rimandando all'elettore, tanto poi l'elettore sceglie, no? Perché diversamente i paesi sviluppati, occidentali, tutti, nessuno escluso, non si sarebbero dati delle regole, perché evidentemente la democrazia è fatta di pesi e di contrappesi, no? E tra i contrappesi ci sono anche delle regole di incompatibilità. Ricordo al sottosegretario Mantovani che di questo problema si parla dal 1862 e non a caso, perché evidentemente il problema di ricoprire incarichi istituzionali plurimi e contemporaneamente magari svolgere un'attività professionale che ti mette in conflitto di interessi, e, insomma, esiste. E poi che cosa vuol dire Io quando ci sono le cose importanti, ma perché un'interrogazione parlamentare non è importante? Mm. Perché l'attività parlamentare, più un parlamentare deve essere, secondo me, tutto tondo. Al 100%. Io però qui mi devo fermare con questa giusta osservazione di Sergio Rizzo, non c'è tempo per replicare, ma insomma mi fermo. Il tema sì è questo, non solo le cariche che si vedono, magari anche chi ricopre cariche istituzionali in consigli di amministrazione, eppure anche politico, anche lì c'è rischi di conflitti di interesse, no? Consigli di amministrazione di società pubbliche o private, ecco, questi sono tanti anche questi. Ma mi fermo, grazie al senatore Mario Mantovani, l'onorevole Lener, Sergio Rizzo, in redazione Sara Spreafico e Peter Bescapè, oggi in regia un po' abbacchiato come me, il Milan ha perso, ma dai, ci rifacciamo alla prossima, a domani.